caffè latte cornettino crema. La mattina sempre nello stesso bar e non metti manco la catena. Rubi una 7-Up, guarda là che si gira tutta Roma quando passi col tuo pantalone bianco alla Rabacis. Per educazione do colpetto di clacson e ti guardo che poi con te è tutto un flirtare, tanto non concludi mai. T'ho preso due o tre girasoli per farmi perdonare e dai, la mia festa blu, nei tuoi occhi blu, eravamo un duo, ma ora non lo siamo più. Sotto casa che ti faccio mille poste, butti giù dalla finestra foto nostre, io la chiappo e grido eo, eo, oh, eo, eo. Una media per me, due. Una birra fai due, tre. Una media per lei, due. Una birra fai due, tre. Una media per me, due. Una birra fai due, tre. Una media per lei, due. Una birra fai due. Tua madre fuma MS rosse, sorride bella, c'ha colpi di tosse, colpi di sole. Biondo platino che va di moda tra le signore. Tu sei il mio sangue, sei i miei capillari. Sei una vecchia storia che sa di Campari. Sulla sedia le giacche si abbracciano, piante grasse ingrassano, due vite non ci bastano. Da amici a fratelli si è messo, e poi sei sparita per mesi, e mo non capisco perché, tra noi solo chilometri di pareti. Eo, eo, oh, eo, eo, vorrei stare incastrati come gli origami. Eo, eo, oh, eo, eo, e sta lontani come stai domiciliari. La mia festa blu, nei tuoi occhi blu, eravamo un duo, non lo siamo più. Sotto casa che ti faccio mille posti, butti giù dalla finestra foto nostre, io la chiappo e grido eo, eo, oh, eo, eo. Eo, eo, oh, eo, eo. Eo, eo, oh, eo, eo. Eo, eo, oh, eo, eo. Eo, eo, oh, eo, eo. Eo, eo, oh, eo, eo. Eo, eo, oh, eo, eo. Una media per me, birra fai due, tre. Una media per lei, due. Una birra fai due, tre. Una media per me, due. Una birra fai due, tre. Una media per lei, due. Una birra fai due, tre.